deve offrire il Ducati. No, sono andato e mi ha fatto la bicicletta da Ragola, non a mano, c'era troppo freddo, infatti mia moglie mi ha detto non c'è andare, fregate, no, non io voglio andare, sono andato, buttato e poi sono tornato a casa. Oh, ma tu che è che ci sento povero tu, sì, già nel giorno ti abbiamo fatto il film della matracca, fare il film della matracca già. Tuia, ma già sono con bicicletta 2. Ma è certo, non è che domani vai a lavorare, non c'è. E io già voglio andare. C'avevo una febbre sino a stamattina. Adesso non lo so, non me ne ho misurato. Ma stamattina avevo 37,4, qualche cosa ce l'avevo ancora. E allora, mi sa che devi fare ancora qualche giorno, c'è un bel casino. Ave Massimiliano, Giubba! Qua, ciao, là, vabbè, sto mettendo un po' a posto, c'è un bel casino e niente, tutto lì. Buonasera, Ciao, ciao, buonasera, ho non ho avuto l'occasione di... E sono tardi perché mi stavo facendo la presa, hai sentito? Io ho sentito, sì. Vai, fai del bene, vai, e ti pigliai anche in giro. Ma tu non hai andato, capo di mio. Oh, ci metti su gruppo di uso, se no se la vediamo in curva una traghetta. Oramai sono un Pasquale Umbraro, sono diventato dirigente. Sì, da te, cazzo. Cazzo già, oh, cazzo, se sei dirigente, non andate a vedere che dirigi, se non andi. Adesso la si dirigi, adesso se la vediamo in curva. Se tu che la dirigi cosa fate? Se non fate nulla? Ma infatti io me ne porto la dirigi ma non fa fare nulla a nessuno. E allora vuoi dire per poca roba di fa? Ah, c'è tutto regalato, tutto incasinato, poi se non si mette a posto il tempo a riprendere i lavori esterni dove sono io, se ne parlerà un altro aprile. E va fatto, e ne credi ancora? Porca miseria, e cosa devi niente? Mi stanno veramente a cantare va presto, poi hanno fatto, Giampa, ma se tu immagini te stamattina ho sentito un collega e ho detto ma cosa facciamo? Riprendiamo, ma cosa riprendi? Cosa riprendi Matto? Guarda che all'impianto del Salone d'Ovale stanno entrando col trattore. Perché non si può entrare, io sto per controllare, è tutta la bassa valle lì dell'Angrona è tutta lagata, capito? È tutta lagata, non si può fare niente. E allora aspettiamo, comunque vediamo, domani mattina farò un salto e se non ti ha giunito, se la biglia in gomma di vostra mano, avanti già. A quanto pare non ne vuole sapere di migliorare il tempo, anzi mi sa che peggiora questi giorni, figurati tu. Già, il tempo suo è febbraio, anzi vi posso dire che se vi ricordate febbraio l'anno scorso aveva nevicato, ma di brutto proprio. Io mi ricordo, mi sono alzato e mi sono di nuovo coricato, una bella bufera di neve proprio da coprire tutto Sassari. Quindi adesso diciamo che l'idea di massima è la pioggia che deve cessare, perché ce n'è anche troppa. So che Alcoghinas e la diga del Tirso molto probabilmente in settimana apriranno le paratoie per scaricare, per abbassare un po' i livelli, perché addirittura sono oltre i livelli di guardia e lì il pericolo è che cedano le paratoie delle saracinesche e quindi è un pericolo vero e proprio, quindi sicuramente abbasseranno il livello di guardia, per dire che siamo pieni a tre, o le campagne non vogliono viste, quindi insomma penso che di acqua ne abbia fatto anche troppa. E infatti è troppo lunga. Quando è tutta insieme così fa più male che bene, non è che faccia molto bene, anche se seminato e cose del genere non fa molto bene, poi ci vuole anche il bel tempo, come ha detto giustamente una amico che la campagna, ma ci vuole anche bel tempo, ci vuole anche bel tempo per poter lavorare, se no come fa a lavorare? E tanto non è facile metterci a lavorare quando è tutto legato, perché no, la terra non la gira bene, sprofonda, insomma, fa casino. Io non mi metto molto, ma la lamentela degli agricoltori è appunto che è troppo bagnata la terra, adesso ha bisogno un po' di asciugare per iniziare a girarla. Va bene, allora microfono per te Massimiliano, cambio. Cabo e Bonnier. Perché sicuramente ha cambiato il microfono sicuramente. Va bene, mi pare che la situazione è un po' più complicata da a me, se mi pare che diciamo va un attimo la butta così te la prendi in culo. Ma va bene, c'è pure così. Sì, che c'è tempo che ci va domani, mio, la stai sciava. Pure domani puoi buttare. No, infatti già, posso pure uscire quando ce la trovai un attimino, così come ti soffo, ma benzina proprio in pressione. Va bene, ci mandi la deposita al telefonino, lo sai, metto al telefonino per fare fotografie, sì. Allora devo depositare qua per cortesia. Sì, fa sapere che faccio che hai dato un voto, ho preso hai, faccio vedere i filucchiti, magari esce che pigliati là, e basta che dimostra che ha buttato, ho preso. Ma tu non hai fatto due prigioni? Ma non me ne avevo mai fatto, vai Massimiliano, pensa che a noi. Ho detto, non me l'avevano mai fatto, in nessuna votazione questa cosa, è un po' strano, sarà una legge nuova. Cosa si è prestata Gianni, bisogna vedere se lo facevano, perché gente lo pagavano, capito, per il voto. Ho capito, e per far vedere che tu l'hai dato, fotografie le cose, io mi sento anche su ero mille di biciti, ma mai da quindi l'ultimo che mi interessava e basta. Ma che ti hanno fatto il telefonino? Perché mi hanno chiesto se faceva le fotografie, ho detto sì, e allora lo deve depositare, così hanno fatto a mia figlia tutti e due. No, non ho chiesto niente, ma non ho granito, sono entrato, ci ho buttato, me ne sono andato. Oh Gianlu, quanto è il segnale così che poi ti faccio un altro passaggio a ver se cambia la modulazione e si aumenta il segnale, che sono al primo livello con questa bestiolina con 911 della Kenwood. Guarda a vedere così quanto è il segnale. Sono quasi 9 qua, questo baracchino, questo non è quello che ti devo sempre segnale di solito, capito? Comunque va bene, così me ne accorgo di più. È un po' che cazzo è su baracchino. Guarda a vedere se aumenta e se la radio cambia, dovrebbe leggermente essere più, forse lontanata, no, però guarda, da così cosa è cambiato? Pensate il segnale, che è salito oltre il 9, ripeto, ma non ti viene conto del segnale, perché è un po' scattino di segnale, è un po' paro questo baracchino. La radio ha mantenuto bene la corposità e la chiarezza, va benissimo. Ah, la radio è chiara lo stesso, anche la teggia? Cappa. Anzi, non l'ho mai usato alla seconda attacca questo girabracchino. Va bene allora? Bene, non ci stanno problemi. Ma che è questo baracchino? Bravo. Questo è il Zodiac B5024, il padre del Tokai 5024, il base. Capito? Questo è il base del Tokai 5024, uguale, preciso identico. Stesso colore, stessi canali con l'11 alfa. Infatti si chiama B5024, vista come base, Zodiac 5024. Bello. Non l'ho mai visto, però deve essere bello. Questo è il gemello di quello che mi avevi fatto prendere tu su eBay, ti ricordi? Dell'Inuit, adesso mi ricordo che sigla avesse, comunque sono qua. Orologio meccanico, 23 canali più 11 alfa, tutto in M, colonnina davanti, rotonda, bello. Quello del tocca è un bel colore. Io già ogni tanto ce lo tiro fuori, lo metto in moto e poi lo rimetto a posto perché non c'ho, non ho spazio, adesso se no me l'avrei messo fisso. Sì, vabbè, questo è un base, qua ci stava, l'ho messo, l'uso. L'uso in 27, 23 canali, non prende colpi. Bellissima ricezione, veramente, molto molto bella, c'ha l'unica cosa appunto è quella, c'ha una bella ricezione, no, non è rumoroso. E poi c'è il Tane più 3 che va molto bene con questo baracco, capito? Sì, sì, deve essere più o meno come il Tokai, K. E la cosa, il microfono originale ce l'ha di quello? Certo, ce l'ha dentro la busta, c'è anche una scatola. Questo l'ho preso da Nasta, nuovo, nuovo, nuovo. Colore proprio originale, il colore del Tamer, il colore del Tokai. Va molto bene. C'aveva il connettore come il Tokai, di quelle che ne esce. E con Gigi Massimiliano abbiamo fatto la femmina, quella che è attaccata a 4, nuova, ordinata, e ci ho attaccato direttamente il connettore a 4 del Tamer con la ghiera, capito? Perché quei cosi si staccavano, non andava bene. Allora gli ho fatto, anzi, Massimiliano con Gigi l'hanno fatto io lì. Mamma di cantina, sono sceso, l'ho portato col microfono e mi ha fatto bellissimo lavoro. Manco si vede che ho modificato niente. Cambiata il connettore, capito? Oh, Giampa, e allora che si dice? Ah, non vedi già qua? Fate la misura. Ma allora, compro che guarda di questo segnale invece a te. Vabbè, lo benedicendo benedicendo. Allora, questa radio che è perfettissima, io ho fatto le prove con le radio HF che ho. È perfetta come Smith, 6.9 più 5. Sì, ho capito, dai. Questo è sempre una radio di battaglia, che uso così, tutto a papà, gomma, col mic più fredda, da tavolo. Ecco, volevo vedere appunto se anche tu già, per cortesia, se ti viene bene, se non ti disturba, mi vedere un pochettino com'è. Allora. Controllo la concentrazione. Ok, guarda un attimino, sto facendo un po' di bordello con le, aspetta un pochino, vedi un poco, ok, cosa mi dici Claudio? Fai, schiaccia la portante. Ok, dai, vedi se aumento un po' la radio, se tiene mantiene lo stesso la, la robustezza. Ecco, vedi, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, però è troppo forte così. Tocca lasciarlo così, dai. Sì, però il segnale ha cambiato adesso, adesso sarebbe 10. È sceso un pochettino adesso? Allora sì. Fa lo stesso. Stazionale 0. Perfetto. Dovresco. Ok, registrato il break, avanti. Buonasera a tutti, non so chi c'era, ho acceso adesso e ho sentito Massimiliano a te, non so chi c'è in ruota, dai. Poi però mi serve una cortesia con Massimiliano. Avanti Luca e dimmi chi c'è in ruota, dai, ho acceso adesso. Acceso adesso, sono da tanto che sono acceso, insomma, però da altre parti stavo facendo prove provette. Avanti Luca. Sì, ciao Gigi, ben entrato. E niente, c'è Gianni Doppio Rumpi, Giampaolo qua portatore, sì, Claudio. Un Massimiliano, come hai detto tu, fa girare un attimino Claudio, ben saluto e poi dopo vedi tu con Massimiliano. Ciao Gigi, buonasera, ben ascoltato. Avanti Massimiliano. Ciao, ciao Gigi, ben entrato. Avanti, mi sto mandando un commento. Avanti Gianni. Che mi devo preparare un secondo di bianco, un attimino riprendi qua.